La modulazione no. Positivo, vabbè, ma le dove stavo modulando lui? Al Ghe, però è una zona molto, molto infossata, molto in zona d'ombra. Va bene. Vicino alla chiesa della Misericordia. Il capo, è dentro buco. C'è della Mercedes, non della Misericordia. Ma è un buco sempre con la smeria. E quindi comunque è molto bravo e lo fa, lui fa il tecnico di computer e cose, però si arrangia molto anche a fare modifiche, barachite, queste cose qua. Ha fatto anche uno con la camera, ecco. Ne ha fatto uno per un amico, ne ha messo la camera con il colpo, è riuscito a bere. E si interessa, siccome lui sa usare molto quello del computer, si interessa molto di fare modifiche su certi apparati, le trova su internet e queste modifiche poi le mette in atto, capito? Io lo lascio l'apparato. Mi farebbe piacere che farebbe di questo apparato qua che non è stato, per me non è stato mai toccato. Anche il mio dice che potrebbe uscire tre volte di più questa parte, ma non mi interessa perché esce già bene, non lo esaminate di toccare. Guarda, io già la verità si dica sono del parere di non toccare l'apparato, però questa modifica, se l'apparato esce bene, non è la modifica a fare. Magari aprire la RC per la modulazione, sì, quello è una fesseria. Vabbè, su quel lato lì va bene, ma toccare le parate modifiche, cosa la tocca a fare? Devi mollare un secco il coso, il tastino, se lo fa pipi. Perché mi si canta il dito, vedi un po' adesso. Ma si è cantato. Si è cantato il dito? Il dito. Adesso lo devi alzare di colpo il dito, mollarlo di colpo. Cappa. Se no ti fischiati sono tutto quanto, se non abbi i campani. Adesso risvegliamo un pochettino. Magari una cazzata quella tua, magari la arricchino più il baracchino ci vede. Ehi, io se ho già toccato qualche tasto, non volevo toccare, mi ha spostato la frequenza, tutto qua il discorso è. Interessante che tu non l'abbia aperto il toccatore per magari per alzare la RC e sbagliato il trimmer e toccato quello delle medie frequenze. No, non ho toccato nulla, non ho aperto niente, capito? Tutto esternamente, no, non ho toccato niente già. Questo qui comunque adesso è la 87. È positivo. Questo esce bene. No, vuol dire che c'è una bella voce. Già, lo credo. Bella, la radio bella pomposa, Quando ti dico le cose, perché? Era anche un peccato per il microfono, l'ho usato due volte, poi l'ho messo da parte, non lo stavo più usando. Ho usato giusto due volte per provarlo, e siccome mi hanno detto che con la mia tipica di voce non andava bene, ci volevo una persona che avesse la voce grossa, io ho preso tra te. Infatti con te va bene, all'inizio sembrava una... E trovano le possibili sia da tenere sul microfono. Come? Era strano, non va male, non mi dava la potenza che doveva avere, ma perché non ci aveva voce la batteria, ma è fu. Allora, quando è sottoalimentata la batteria, io vedo che poi la voce c'è tansina, c'è piccolina, sembra... Capito? Allora, è così. È così, e che si può fare? Tutto si può fare già. Ma te ne è buono, ci vuole l'amicizia. E nemmeno ricaricabile, perché io l'ho provato a ricaricabile, il microfono non ti rendono nulla. Ti si consumano in una sera. Ah, beh, quello sì, Non sì, sì. Ok, qualche parte di cellulare per portatile, perché volevo mettere ricaricabile, poi ricaricabile ogni volta. Quante parte di cellulare lì? Che mi ricordo io sono dai 9, però c'hai due, visto che c'hai quelle finte batterie, ne puoi mettere 8 solo. No, ti dà meno, va. Faccio così. No, non fa. Io le voglio mettere tutte. Ne voglio mettere tutte quante e buonanotte sono a tutti. No, sono 10 batterie, capito? Penso siano sulla decina. Ci metti le dure, ce l'ho già ancora, no? Ah, dopo le dure ci va tranquillo che sono delle bombolette. No, io me ne sono accorto, li mettevo altri tipi di batterie, questi microfoni non duravano un cacca. Nemmeno un mese mi duravano, invece con le dure ci durano un mese. Ah, perché sono i migliori, capito? Sono i migliori. Stavo qualcosa in più, quanto l'hai pagata? La mia, mi sembra pagata intorno agli 8 euro, mi sembra. No, troppo. Troppo? Te l'ho fatto pagare un bel, dove l'hai comprata? No, l'ho comprata in negozio, l'ho comprata dove vendono, tipo delle misure, questa roba qua, vai. No. Allora tu le devi comprare alla Sisa ce li hanno le nudaccelle e costano 3,90 euro, così 4 euro butta per le mani. Al tabacchino che le vedono beccare costano 5 euro. Che pagato, era un malebuttito già, non lo so. E beh, proprio sì. 8 euro magari a 2 vanno anche bene. Infatti sembrava strano, no, forse sto sbagliando io, no, sui 5 euro mi sembrava 5 euro, non ricordavo bene la verità, più o meno quella cifra lì comunque, vai. Guarda, il tabacchino che se non beccare costava 5 euro, se non costano 3,90 euro, mi pare la Sisa. Poi erano anche in offerta in questi giorni, perché l'ho presa io una. In questi giorni era in offerta, veniva, non veniva nemmeno 3 euro, mi pare. Ecco, la gappa. Ah, so chiedere così me ne prendo un paio di sconto, diciamo, vai. Ma non la sai, perché poi magari ti scatta, si scarica la sotto. So, c'è anche quel coso lì. Ecco, no, un paio giusto per avere il cambio, una, due massimo, non di più. Ah, io sono 20. Eia, questa voglia va. Eia. Attenzione, partito. Eia, Cavarocci, sempre qua siamo. E guardare dove ti ascolti meglio. Allora, lo ascolto meglio, noi siamo in D, e lì vi ascolto in E, addirittura. In E, prima dove? In D. Non è possibile. Come già? Allora, sai cosa è successo? La manopola del canale è uscita per caso. La manopola del canale? Ne è saltata fuori per caso. No, negativo, non ho toccato nulla, ho toccato quei tastini che c'ha. Allora, in pratica c'ha 1, 2, 3, 3 sopra e 3 sotto, tastini piccolini neri sono. E cosa c'è scritto? Allora, cazzo già, sono in miniatura, aspetta che prendo il telefonino, c'è la lucetta. Se riesco a leggerti lì, aspetta un attimino, Allora, vediamo. Vai, andiamo a vedere. Allora, in uno, quindi sopra c'è scritto, sono scritti piccoli, vabbè, macchi, gap, H, ecco, vabbè, AM, FM, scan, W, NP. nel canale che tu memorizzi te ne scannerizza, poi NB è il filtro, poi mi eletto. E poi se diciamo AM, FM, quello detto, poi c'è l'altro, si chiama già. Ma scritto M, FM, guarda. MG così è. Guarda MFM che non ha vigilato quello, che non ha toccato quello, che l'ha mandato quello fuori frequenza. Io... No, ho già provato. MFM funziona bene. Allora cosa che problema ci scusa? Non lo so, allora, siccome questo apparato qua c'ha di segni e numeri, per esempio il canale 1, e poi a fianco c'è il canale 1 tira 2000 e tutti e compagnia bella, capito? Quello è il frequenzimetro, non l'accento. 2027 075 27 0 76 eccetera eccetera, la frequenza. Vabbè, comunque, tutto fuori frequenza, capito? Quindi, allora, con questo apparato che sto volendo adesso, no? Con l'Alan 87, sono in D, capito? E qua mi dai in B, come vai? Quello non c'entra nulla, secondo degli apparati. Per dire, cosa sul Galaxy, quello da... ogni apparato c'ha la sua lettera per il carico, sono quasi quasi uguali, ma c'è qualcuno che cambia, capito? Ma non c'è c'è cosa. Ah, io tratto, non voglio vedere se andava, da. Aspetta che non metto in funzione, va. Capitino, no, se così allora andava. Se lo sai che fate dalla me, dalla me. Adesso compri con la sì. E dammi il tempo. Già, adesso devo sto pensando. Spiazzalo. Adesso spiazziamo tutto. Hola. Pro. Non esci. Falche, se tu fai due colpi in portata. Non stai uscendo di radio allora. Controlla bene. Guarda bene lo spiro per il microfono. Farchito. Nada, de nada, se sei tu non stai uscendo, Falchè, attacca l'altro, troppo. Hola, Farchito. Nada de nada, non esci con cus. Se mi ascolti mi sto ascoltando un secondo, Tappa, dimmi, Sto scendo adesso. Sì, ma sempre bi. Vabbè. Sempre con questo rumore, bi della cosa. Non si chiama. Ma che adesso lo sta facendo, guarda. Sempre. Strano. Aspetta che stacco il bip a vedere, guarda adesso. Adesso non è fatto il bip perché sta andando male. Gabba. Uè, Pirino. Hola. Ha detto Pirino. Lavaggio. Guarda, arrivando, Santiago 3. ci faccio il tempo. Cos'è Falchetto? tanto per il microfono di macchina normale. Usando la macchina normale? Il mobile. Ma come gliel'ha detto? Se c'ha problemi di portare lo devo mettere a posto. Ma tu sei già? Io. Guarda adesso Gianni. E adesso guarda. Yeah, I'm sure. dell'M300 che non fa bene. Oh, di un uomo un mezzo. Ma tante volte sono più rispettabili i pastori di certa gente che si crede superiore a loro. Secondo, anzi, secondo come parla, nessuno me lo cavalca a quel vecchio comandiere che fa diretto, mi viene troppo di cura, a più malare ho fatto l'intervento, è un gatto, siamo un pezzo di coccia, 2 euro si fa per pagare 2 euro, la più sicura. Cosa viviamo? Ma tu di Vodafone qualche cosa ce la fai a prendere? No, non ce la faccio. Ne ho 4.000 e 8, qualche cosa del genere. Sì, se ce l'hai 4.008, no, no, già ti esce, anche il telefono mio. Pagava. Se mi raccomando, si dà la lavoro con campa, dalla casa a tutti i paro. Aspetta un secondo che devo controllare una cosa. Mi ha sbagliato. Cosa hai sbagliato? Non era nei punti, ma era il numero Vodafone da fare, quello lì. Di punti ne ho 5.000. 500 cioè. 500? Ma ti esce qualche cosa? Non so se vuoi io ho... La password posso entrare in Vodafone e ti... Se posso dire che cosa c'è con 500 punti, ma poca roba però. E vabbè, dimmelo se c'è qualche cosa, la prendiamo, dai. Perché no? Perché non le lasci fino a febbraio? Sono validi fino a febbraio. Cosa? Perché non te le lasci fino a febbraio? Dopo febbraio puoi fare anche qualcosa di più. Perché la proroga c'è? Fino a febbraio. Con quelli sì c'è qualche cosa, ma... Messaggi per un mese c'è che ci sono, mia moglie. Con 400 punti ci sono infiniti per un mese. No, non me ne affitto, io voglio qualcosa di palpabile. Palpabile, ecco, 500 poca roba. Ma con una donna. Mega gay, è palpabile. Già va bene. Gonfiabile però, Gonfiabile, no, allora no. Carneosa dice che ti danno, con 500 punti ti danno già la chiavessa. Mia moglie ha detto che Begagli è gonfiabile e anche bucata. E però se te la mandano bucata non lo so, È bucata, non si gonfia. Vabbè, e poi te la faccio vedere non me la fai raccoppare. Cosa per fare? La porca la fa fare il nome e la fa raccoppare. Sì, ma no, non mi piace la roba aggiustata, a me già lo sai. Una. Che bello. Già, sempre meglio le ciclope del paratene. Adesso me lo uso per un po' questo qua che mi piace. Cosa usa? E li hanno sgamati, Wuster, tonno, tutto quanto in scadenza. Manca buon giorno, 2 giorni a scadenza. Meno male che fa questo, non gli danno mai il controllo del mio, saluto. Prova a abbassare il volume. Thank you. fatto adesso come bene? Come hai detto, deve stare più lontano possibile. Adesso rimetti il film. Si è aperta? Ah, va bene, io sono già, rimetti il film. Passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ah, lo vedi, ah, lo vedi già. Cazzo di tene, un capo che arriva in tante, cioè sia il capo che l'alimentatore non devono andare a toccare il, l'alimentazione, se no innesca capa capa. Bene, bene. Adesso spostiamo le cose allora, eh? Oh, hai visto già? E io, siamo arrivati le pizzette. Ma buona, mi lascio per un po', poi io ci sentiamo qua. Cava, perché non gli ho detto già? Cosa? Perché non gli ho detto? Che cosa? Di allontanare il cavo. Di allontanare il cavo? Perché non ci ho pensato. Non pensavo che facesse una cosa del genere. Adesso va benissimo, non c'è più il suo innesco e va bene. Ok, perfetto, accetto. Ecco, era, sì, perché io c'avevo il cavo, scendeva per terra, l'alimentatore era quasi attaccato al cavo. Il cavo dell'antenna, bisogna tenerlo sempre più lontano possibile, se è possibile anche in sospeso, perché fare quei rientri così brutti, soprattutto microfono con l'eco, caso poco innesca. Ah, chiappa chiappa, guarda adesso con l'eco, amici. Adesso metto due di quelli che mettono attaccare l'antenna al muro, dai, e lo attacco al muro direttamente. Ok, però non puoi mettere come vuoi, l'importante è che soprattutto l'alimentazione, dai, poi se non può cacca per terra è meglio. Adesso faccio così, intanto ce li ho, ne metto due e sono a posto, dai. Gaba gaba, se prendi tu Arto che io vado nel cucchiaccio, dai. Perché l'alimentazione non deve toccare, altrimenti ti dà problemi, ti fa rientri nel capo, hai capito? Infatti adesso lo sospendo, lo metto in alto, li metto due di quegli affari che appartiene all'antenna e così lo sospendo anche da terra, dai. Allora. Oh, sento bene qua, vanno bene adesso. Va la grande. Ma io 5 arrivo con la zona, sto arrivando il segnale. Ma è passaggio, tu? 2, 3, 4. Ehi, a 5 stai arrivando tu. Già va bene. La modulazione sta rogge. Sì. Poi la radio è pulita perfetta, tu, al 100%. La radio già so che va bene. Comunque dai. Ma oggi stavo sentendo, ma la mano va a piazzare. Forse mi regalano una moto, ma capito. Bella parata, ne vuole un palo buono per piazzare quella. Io ci metto un tubo docente, non va bene. Scusa, già va bene, già bello robusto, e ci deve entrare anche nella balzetta, ci vuole tanto suo. La mantova vuole fissata bene, non vi stai ponendo un antennino sotto una tragabistuglia. Lo credo bene. Aspetta un secondino tu che sollevo l'antenna a terra, dai, così vediamo un po' modulando come esco, vai. Va bene con questa va benissimo. Però l'avrei lasciata quella lì qualche. Positivo, ma non so neanche se ne prendo, tu quando esco bene con una antenna lascio quella, capito? Ma poi quella lì io l'avrei lasciata, perché visto che c'è, quella lì l'avrei lasciata stare, avrei messo la manto ma da un'altra parte e basta. Capo che è positivo, adesso vediamo, non è che sto pensando niente ancora, ho detto vediamo un po' se me la regala, sì, se no se la può anche tenere, capito, lascio quella decida, esce abbastanza bene. Ma voglia. Eia, lascio un attimino, mi piglio il martello e sollevo l'antenna a terra, ma il capo da terra, poi vediamo un po' se sento il nischi, comunque non se ne sento il nischi, no? No, negativo, non si sente niente. Poi se vuoi fare un miglioramento c'è una via di mezzo, c'è la Ringo, della LED che va e all'inglese fa molto bene, spinge alla grande, non costa come la Manto, ma costa una quarantina di euro, va alla stragrande. Mi sa che mi prendo quella, se costa così poco prendo quella, tu cosa mi dici? Capo, è una cosettina del genere costa, e va, è pompa duro. Prenderemo quella allora, addosso uno stipendio, compreremo quella e piazzeremo quella, perché mi hanno detto che lo stilo è già regolato, capito? Lo devi mettere dove c'è la pacchetta, stringi la pittina ed è regolato. Ma va. No, quella che mi hai detto tu. La Ringo. C'era una persona, e ci fu ogni arrugo questo va molto bene come antenna. È una via di mezzo, però sei tranquillo che ti sento. Cappa. Sì, va bene. Beh, un attimino di bianco, tanto già riprendo subito. Faccio un po' di miccia. Vabbè, fai. Già riprendo subito, tanto un attimino, che metto a posto il filo e sto riprendendo a modulare, ok? Sotto con l'alimentatore, l'apparato c'era sopra, un biglietto, l'antenna, l'ho sollevata a terra, dovrebbe essere tutto ok, dai. Allora, va perfettamente bene. Purtroppo quelle cose rompono un bel scatole, perché a noi si è già successo, uscendo di testa e poi era quello, era, quindi è un'esperienza in più. Si impara, poi siamo reso conto che era più addenata l'alimentatore, per quello che l'abbiamo detto. Mi avete fatto piacere, me l'avete detto. Come ti sto scendendo con i coordinati, Antonio? Stai arrivando anche bene, se no, quasi 9, 8 dai, a picchi di 9. La radio com'è, pulita? Buona, un po' di fruscio c'ho. La radio c'ha un po' di fruscio. Ma non dipende da me, non dipende da te, ma dipende da me. E cioè il QRM è un po' alto, però ti sento, non ci sono problemi. Ok, dai, ciao, va bene così allora, vai. Perfetto, ok, ok, adesso facciamo un'altra cosetta. 2 secondi e ripeto subito, tu. Io non me la guardo la tua parte, io me la mai. Non lo so, Giulia. Ti credi che pure me la fai tu? Io la credo prima. No. Cazzo, che affarico mi culo. Come qua? Però non è la buona come quella che compriamo là. Guarda, Giulia, sono dei ragazzi giovani che la fanno fare via Valdetta vicino al Carbacchino, una pizzeria nuova, sono tutti ragazzi, avranno tutti 18 anni, 19, sono tutti giovani. Siamo alla residenza, cioè. Siete ben dunque, panico, vero? Cazzo, anche troppo pieno, la verità, se in salita sono andata, me ne esce da luci. No, ma era un bel po', Sì, già va bene, va bene, così si può mangiare in due. Scaldato bene, fatto proprio a livello. Sì, già va bene. Così posso mangiare in due, mangiarsi uno in due, perché uno è troppo pesante, troppo... Non so, pure a me ma piena due. E mi chiama a me, ciao, mi è puro, mi ha proprio, c'avevo questa cosa sino alla gola, e sentivo questa cosa che era il fulmine blu. Ma mi sono dovuto andare io, qualcosa, ero pieno proprio, però quando lo mangi ti piace anche mangiarlo. Sì, quello sì. Poi basta invece un po' di Coca-Cola e si fa il latino. No, lo fa bene, fa veramente bene. Cazzarola, mi sono dimenticato di prendere le pastiglie. Quindi devi rimbalzare di già. E vai. Antonio. Dimmi, va che... Beh, come sto uscendo adesso? Benissimo. Non ci sono disturbi, no? No. Bene, sono contento. Hai visto, a saperne le cose, bisogna saperle, c'è poco da fare. Non mi ho aumentato altre cose, dai, se ti tengo un bambè. No, ti ho detto, ho spostato l'alimentatore, il carro dell'antenna lo sono dato a terra e dovrebbe essere bene adesso, no? Pulita. strada. Va benissimo, ma non c'è rumore. Quale rumore? No, no, fuori, aspetta, no, qua c'è un rumore, aspettatemi. E infatti adesso io vado allontanando il più possibile, se possibile. Sì, perché poi tutte queste cose qua, usci, casini, mamma mia. Già lo so, Giulia. È sempre bene sapere certe cose. Esperienza. È tutta esperienza. Cosa ci eri riuscito a metterla a posto? E l'altro apparato? No, no, no, dice che non sta uscendo già di voce, capito? Adesso lo porterò a controllare. Ma non è che si è scatto il coso? Il replicino? Ma cosa ne so io? Non saprei cosa dirti, tanto. È la modulazione, devi vedere il replicino, aspetta a vedere se ho detto giusto. No, il replicino devi vedere, perché il replicino è la ricezione. Sono quei tastini che ti ho detto. Guarda, ce l'ha quei pomelli, quanti pomelli c'ha questa radio? C'ha 6 tastini. Non ce li ha quei pomellini dove si girano. Sì, quelli di Asciagliani, addirittura 4. Scappa. Uno è il Mickey Game, giusto? Aspetta che guardo. Sono qua, sono lì, con questo apparato là mi dà il C, capito? Prova a parlare quando io attacco. Non ci sono problemi. Ok. Piccola, tanto te ne accorgi, ti senti, tu ti senti, hai capito? Mi sono dimenticato di dirtelo. Se la cosa, se la modulazione fa, te lo senti tu nell'apparecchio. Sì, no, già va bene. Sembra il comodo di tavola. Ciao. già va bene. Ma che devo disegnare con Smith? Guarda un po'. Uno, due, tre, stella. Nove. Capo, nove, sicuro? Positivo. E lo facevi tu, cara. E io sono qualcosina in più. No, 69 è spaccato, vabbè. Allora siamo uguali. Spaccato mi arrivi a 9 anche a me. Aspetta, no, passaggio, vai. 1, 2, 3, 4, 5, sì, prova. Dopo più di 9 si va poca roba. Capo. Sono contento. Va bene, c'è anche molta distanza, eh. A te quanto tali quanto? Non è vero, anche lì. Se ho a picchi di 9. Positivo. Positivo a 100. Solo mi entrato a rompermi le scatole, quello lì. Ah, Maria, cavolo. Mannaggia. Ascolta, vai sull'uno. Va. Ehi, a tu. Ti disturba ancora? Scappa. Se no, se disturba ancora andiamo sul coso. Sul 19 alfa, lo sai come si mette? No? 19 alfa, tu lo sai come si mette in quella parete? No, non lo so, tu, spiegamelo tu. Allora, c'è quel tasto, l'ultimo tasto che è vicino al display, lo vedi? È il primo? È il display. Il primo tasto, non l'ultimo. Cioè di più 10. Come? Come tu? Quello cioè di più 10, l'hai visto? Di più 10? Fatene a fanculo, guarda, sta mettendo la portante pure qua. Ah sì, l'ho visto. Più 10, sì, è bene tu? Quello. Lo tiri su e vai sul 19, 19 alfa, vai, tiralo su. Cappa. La Sardegna, certo che ci sono. Pensavo che mi dicevate di anche tu, io pensavo che... Questo è strano, ho preso un girato e l'ho trovato lì. Però stavo dicendo già solo che c'era quel rompiscatole, certo che non ha capito che la portata a me non me l'hanno più. E ti svaria un piccione di svaria, cazzo. Ehi, vabbè, detto qua non ci arriva, manco per le plane. Non ci arriva no. Ho le carri di sotto, di sopra, già c'è la maniera di debellarlo. Di 10 kg già bagatta, non lo sapevano. Qua se uno va sul 19 normale il G7, ma non riesce a entrare. Ah, gappa. Beh, la sapessi già. Se non è che c'hai 10 kg, capito? Gappa. Devi avere quel tasto che ti sposta 10 kg. Gappa. Riprendi Antonio. Antonietto, dove sei? Che carogna, non mi avete avvisato, io ero sul 21, allora. Sei bravissimo, ce ne siamo spostati, prima sull'1, poi c'era quello lì che stava... E poi c'è la mesa frequenza, c'era? No, c'era anche io. Gaba. Accendo lo sta. Figa. Che sa che non credi a casa con questo microfono in mano? Sa che credi a tutta la generazione. E non si ragazza la pizza, non dici lui tu mano a zero. Non abbiamo un regalo. No, sai cosa bisogna fare? Dove è sull'uno? No. Sul 20. Andiamo sul 20, però conosce? No, loro sono soltanto gli alfa. Noi possiamo farli tutti alfa. Loro c'hanno solo per dire l'11 alfa, 12 alfa e 21 alfa, così. 3 alfa, 7 alfa, 11 alfa, abbiamo quello dell'altro, 15 alfa, 19 alfa, 23 alfa, quelli c'hanno. Ma che però ci dovrebbe avere tutti. Adesso calare il suo e far uscire il test. Che la cosa di cui stavamo parlando ieri non è fattibile, perché sabato è l'ultimo sabato prima di Natale. Lo so che è l'ultimo sabato prima di Natale, quindi... E quindi non c'è possibilità di organizzare, come fai? Lui deve andare a Ozzino, a Sovole, chiamare gente di fuori anche, non lo so, bisogna sentire a lui cosa dice. Magari Pilla si deciderà di farla tutti insieme, perché lui stava dicendo un punto d'incontro per trovarci tutti insieme, questo e quell'altro, capito? Certo, ma quella non è una cosa da organizzare adesso, quella è una cosa che si può organizzare in seguito, insomma. Dopo che magari ci abbiamo parlato un po' alla radio, magari. Dopo che ci abbiamo parlato un po' alla radio anche. Anche a spruzzo. No, lui lo preferisce a goccia. goccia, goccia. Goccia, goccia. Capiendo. Capiendo di nero. Ma che fa? E allora, io sì, mamma mia, tutte le cose fanno male. Che fa? E io sono oh, ma Monica, lo sai che c'è la pausina a Olbia? Certo che lo sa. Ma va? No. Ah, non può andare. Ah, peccato. Noi dobbiamo andare. Noi dobbiamo andare. Sempre che vi la bozza. Perché mi fa sempre male sto cacchio di gamba stare in piedi lì, boh, al freddo. Purtroppo lavora. Dopo dal marito. Dal marito? Sì, vabbè, dal ragazzo. No, no, no. Ah, giocato. Vabbè, pazienza. Guarda, se ci riesco a scattare un po' di foto che l'hai posto, va. A chi amore, cazzo? Sì. Capito, per la meno si è acciappato un fuoco di vino. è quello che sto aspettando da tanto tempo. Chi vive sperando muore. Ma non si sa mai. Allora, mi dove ha esplicito lui? Non si sa mai, no, tanto. E una volta ho trovato un portafoglio, ma c'era poco dentro. Non c'era, c'era solo un portafoglio, deve essere di quelli che si prendono in mano, vedi, che usano le donne grandi. E c'erano, mi pare che c'erano 30 euro, una cosa del genere, non c'era moltissimo. In mare, insomma. Mare, non sono mare, ma vedi di un pugno a luce. Ti ero trovato una tu. Dove era? E c'era... lo assegni Audi e poi in contanti c'erano 340 euro, una cosa del genere. Per la grande. Io ho un guido io. E gli assegni cambiati? Ma i tariffari. Ma tutti gli assegni. Purtroppo ci vogliono i corsi, no, non si possono cambiare, non ti avvengono. Sono stato messo. Se Borsellino non era nella posta. Bravo. Ma come ti accenero? Allora. Mi ha lasciato anche le assegni dentro. Tutto, tutto. Loro di soldi. Vabbè, almeno quello non si deve rifare i documenti. Eia. Ti sento più a parte. Eia, basso basso, ma già ti sento. Ma vabbè. Sei un po' meno di 4 di segnale, te la va di 1. E tu vai. Non c'è solo un tipo. Io. Ma già va bene. Che materia c'ha quello lì? E quello c'è ancora ragionevole. Ragionevole ancora quello lì. Guarda, accanto alla grande cambia la modulazione pure, c'è ancora meglio. Anche io l'ho attaccato stamattina. Quando lo stavo provando, però mi hanno detto che la radio è brutta. Da. Mi sembra così male. Tu mi hai sentito l'altro giorno, tu com'era la radio? Andava bene. Allora. Dobbiamo dirti che basta carriera. Gelosa, la gelosia. Ma boh, chi lo sa. Chi lo sa, ci divertiremo quando poi succederanno le cose, perché molte volte ci godono di farti stare male perché magari non va bene qualche cosa. Sì, ma non ti è più la gente, non già, sono delle amici cari e basta. Una volta mi hanno fatto montare un microfono in macchina, non c'era niente. Sì, penso comunque, vai, non ti invidiamo. Poi ho ricevuto la telefonata, già, ma cosa ci vendi? Smontano il microfono e cosa c'è? Ma che ti stavo prendendo in giro che il microfono non c'ha nulla. Pensa un po'. E allora l'ho rimontato, gli ho rimesso le viti, tutto quanto, sono entrato e ne ho cantato quattro. Ma non mi devo incazzare, ci sono fatte la glicemia, i battiti cardiaci e tutto l'altro, non mi conferma mai incazzare. Allora, vabbè. Rischi di pigliartela a quel modo. Lo spengo adesso. Quando c'è qualcuno che non mi va, spengo il buco. Scappa. Molte volte conviene fare, se uno sa che esce bene, molte volte conviene fare le orecchie da mercante, no? E non darlo in retta. Io già c'ho la radio monitor, me l'accendo e mi guardo come esco, e adesso non è che non ti... Ma poi se te lo dicono, se te lo dicono che va bene e basta, ma poi là si pone il suo schifone, però se uno se, se uno lo capisce, lo sente che va bene, e quello è buono. Ma infatti, e quello che è successo a, a Toso, l'ultimo, non sapevi, a Gio Maria. No. Me l'ha fatto montare l'apparecchio, guarda, l'apparecchio non va via nulla. Sega. Cosa, Graziano? A te la metti, Graziano. difettoso la radio dentro di Graziano, a chi va per la Lumeco e sente in diavolo, va per la Graziano e sente in via, e Graziano, ma se la stava a tutti, cacciato, a capo, a dove sei, a preso la vita, a vedere se la a poco ci hanno preso la parata, guarda. Non conviene affidarsi, bisogna chiedere a più persone, secondo come va, perché molti si giostano, si divertono anche a fare dei malumori. Ma no, è quello, invece le persone care ti dicono la verità e bisogna accettare la verità come, capito? Perché se io ti dico che stai uscendo bene, vuol dire che stai uscendo bene, tutto qua. Certo, ma ti dico anche se stai uscendo male, anche se so magari che ti può dare dispiacere, però ti dico la verità, se stai uscendo male dico non fa che, se scende male, basta. Bisogna che controlli qualche cosa, ecco. Però io so che se ti dico che se scende male a vivere, se no non te lo dico. Appunto, cioè, io devo accettare anche la realtà, capito? Non per le palle, ma... vabbè già, però se scende male, se scende male, punto e basta. Avanti, Pierpa. Thank you. arraccattato guarda chi i trattati da seconda della basso. Io qua ce l'ho due, infatti io quella che sto operando adesso è senza... precisa, anche perché sono stanco, oggi faccio il bravo, là, domani recuperiamo. Yeah. fare i lanci. Oh, c'è per tempo. Freddo adesso, non aiutare di andare a Calavari, se no sarà andato a Calavari. Troppo freddo, beh. Ecco, è questo. È migliore. È migliore, spiazza. Vedremo di trovarne un altro, allora, uguale. Guagliava. Ma non va male, manco quello là, dai. Quello che è l'ultimo. E non va male, è un po'... diciamo che è un po' metallico. Il gioco c'è la gara. dato la buonanotte e ce la riascoltiamo in tale migliore. Ciao ciao Gianni, ciao Pierpaolo, ciao Antonio, buonanotte, ciao ciao la parte mia, quella per te la parte mia, ciao ciao. Il Turano Giorgi, ciao ciao Falche, ciao, buonanotte, avanti Pierpaolo. Non credo, non credo, non credo, Ma sono mai andato a guardarli, oggi a guardare. Sbagliato, sì. Perché tu prendi anche il microfono a quanto sto normale, è 1500 ohm. Quelli a 1000 sono... sono tipo questo qua, tu ci fai con un altro, il microfono a tavola, 1000. Pesaro, perché è uno punto zero zero. Ma 1000 si è detto 1.000. Ma quelli ce ne sono due però. Non lo so, comunque. Solitamente sono 1500, io li ho sempre conosciuti così i microfoni. Quello, questo qua, la paglietta invece 500. 500 ci può stare. Questo che sto usando io è 500. Ed è giusto. Quelli 1000 praticamente sono quelli che ho la capsula, tipo quella piccolina, tipo l'MPP5, eccetera, eccetera. Tipo questo. Gli amplificati solitamente sono. Questo non è amplificato, però c'è quel tipo di capsula. Mille. Ma tutto, però tu sei... Ti viene da va, adesso lì con il figlio, un cazzo, ma forse le treno. Fa il cazzo, e quello però c'ha la precompressione, il malattino, qui, a casa, a Marco. E mille questo. Seconda generazione, abbiamo letto manuale, tra l'altro i leggi le caratteristiche, rompite la luce al volo. Poi gli ha chiesto quello lì che si è preso, 180 e passa euro costava la ferma. Cioè lui gli dici, va perché tu gli dai, ci sono i saldi adesso, però lascialo chiamare 10 anni lui. L'altra sera c'è un bel freddo, beh. Che spite! pure, non si dice più. Poi lo do io. Invece che spray, spray. Non si detta una cosa del genere, raga. Io se c'è... Aspetta, cosa ti fa il che fa la me la metto più, quando arrivi. Sapevo che c'è un bel freddo, ok? Sì. C'è neve di tutto sicuramente. C'è neve. C'ho la cuffa 2, c'ho. La cuffa 2, perché c'ho freddo. Ah, e a proposito di questo freddo mi ha piazzato le tubo. Fatela. È venuto. Era malato ieri quello di piazza. Deve essere il fratello, quello che c'ha la faccia apposta la bruciata sempre. Se stava asciugando senza camici, non riusciva a tutti, lo dice che era incastrato dietro. Allora ha dovuto cavare un ruolo e via. Beh, non sa che bisogna fare così. Sono una zagoma che. No, già era tolto. Ma era un bel castrato. Era un bel castrato. Sicuramente come l'ha tirato, l'ha incastrato lui stesso. Non doveva tirare diversamente. E poi c'è stato un bel pezzo, c'è stato tutto sudato. Ha detto che la pietra sta anche pisa perché c'era anche la febbre oggi. Io mi sono troppo, lo pongo 5 minuti. E vabbè. Ha trovato difficoltà, ce l'ha anche lui, magari ce l'avrebbe fatto. Ma molti che si guarda appena gatta. Qui c'è l'elle. Ma interessante che sia fatto adesso, si abbiglia le luci. Ciao per qua, stavi strappando i brutti. Non smetti, stavo a vedere. Antico, così ripreso. Si è ripreso un pochino, si è ripreso. Allora, qualche grano lui polvere che è entrato, magari vuole soffiare, ha messo un po' di spray. Ma ce l'ho messo, ma si è ripreso un pochino, non più di tanto, un po' si è ripreso. Ma poi c'è qualche cosa in terra. Sembra che sia lo smitter, proprio. Magari il magnetta. La radio esce bene, alla fine dei conti. Va bene di tutto. Banda laterale, perfetto. Pagato. È un bel apparecchietto. Spero che il coronatello sia bello. Non si abbia preso qualche apparecchio che non va bene, poi il radio magari che cosa. Ah, io sono convintissimo che quella radio va bene. Va bene, non ha problemi. E di fatti e di tutto. No, stavo dicendo quello grande, stavo dicendo, l'ho provato l'altro giorno in banda laterale, e va bene. Ha pagato. Oh, va buono, sta venendo il sonno, Davis. Ci sentiamo, ti auguro buonanotte, e lo trovo per domani. A non smidere. Allora, buonanotte, Davis. Ci sentiamo tutto domani. E buonanotte anche a Luca, se ancora nascosto. Ciao Luca, ciao, buonanotte.